E allora, quando sono le 20:17, iniziamo la nostra primer di oggi. Continuiamo a leggere un'intervista a confronto di due grandi poete femministe lesbiche, Adrienne Rich e Audre Lorde. Questa intervista fa parte di una raccolta di articoli e di conferenze che si chiama Sister Outsider, che è stato pubblicato nel 1984. Le edizioni spagnola e francese sono uscite nel 2003. Nelle prime parti, Adrienne Rich fa parlare a Audre Lorde delle sue prime anni di insegnamento, fa parlare lei delle sue difficoltà, ma anche del suo coraggio che ha avuto per vivere liberamente la sua vita di, come dice lei, sono nera, sono madre, sono femminista, sono poeta e sono lesbica, e anche in generale delle condizioni delle donne nere in generale. Don't say it, I won't say it. Everybody close your eyes and look the other way. Lay it to rest, it's best in this crazy headspace. Welcome to the rat race, everybody out of phase. Feeling spaced, a little out of place. I can't remember why I chose to run this race. It's a steeplechase, uphill and down dale. I should have checked the map before I set sail. Before I set sail. Before I set sail. Disaster seems to me, it fits me like a glove. I do disgrace like it's out of fashion, falling like it's Prada. Traverse the universe at the heart like there's no other. My boots are getting tired and worn. I'm wondering what I'm looking for. It's the ultimate search for the holy grail. I guess I should have checked the map before I set sail. Before I set sail. Before I set sail. I said say map. What's the scale? Where would they send my mail? I should have checked it out before I set sail. Before I set sail. Before I set sail. E allora un saluto per prima a Olga, che da solito ha tenuto il ruolo di Adrienne Rich, che mi torna oggi a farlo. Ciao Olga. Ciao Olga. Mentre tocca a Flavia di fare Audre Lorde. Hai tenuto un corso sul razzismo a Lehman. Hai studenti bianchi? Il Ministero della Pubblica Istruzione aveva avviato un programma per ragazzi bianchi che andavano ad insegnare nelle scuole della città di New York. Lehman era una facoltà con il 99% di studenti bianchi, che a loro volta avrebbero insegnato ai bambini di colore della città. Il corso si chiamava Razza e situazione urbana. I miei alunni si domandavano: ma che stiamo facendo? Perché i nostri studenti ci odiano? Mi sembrava incredibile che non comprendessero i livelli più elementari delle interazioni. Io spiegavo loro: quando un bambino bianco dice 2 più 2 è uguale 4, rispondi è così. Se un bambino nero della stessa classe si alza e dice 2 più 2 è uguale 4, gli dai una pacca sulla spalla e gli dici: ehi, ma è fantastico! Che messaggio stai trasmettendo realmente? Cosa succede mentre cammini sulla tua strada di insegnante? E mentre entri in classe? Andiamo a vederlo praticamente. Quindi fuori usciva tutta la paura e l'odio di quei giovani studenti bianchi. Fino ad allora nessuno li aveva messi di fronte a questi sentimenti. Ma erano per lo più donne, giusto? Del Dipartimento della Pubblica Istruzione? Sì, erano quasi tutte donne e si sentivano dei capri espiatori. Alla fine del secondo semestre ho iniziato a pensare che sarebbe stato meglio se quel corso lo avesse dato una persona bianca. Per me aveva un costo emotivo elevatissimo. Nella mia classe non c'erano più di un paio di studenti neri. Uno di loro smise di frequentare il corso sostenendo che non gli sarebbe servito a nulla. Pensai: ma come no? Il razzismo è una distorsione che non colpisce solo i bianchi. Che dire di noi? Che dire delle conseguenze del razzismo bianco sul modo in cui le persone di colore si vedono l'un l'altro? E il razzismo interiorizzato? Che dire degli insegnanti neri che danno lezione nelle scuole dei ghetti? Mi sono resa conto che un insegnante di colore che va a lavorare in una scuola di New York City, dopo aver ricevuto una formazione razzista e sessista, si pone dei problemi diversi, ma altrettanto gravi. Is that India? What happened to her hair? Well, if I wanna shave it close, so I wanna rock locks that'll take a bit away from the soul that I got. Little girl with the pressing curl, age 8 I got a jerry curl, 13 and I got a relaxer, I was a source of so much laughter, and 15 when it all broke off, 18 and I went all natural, February 2002 I went on and did what I had to do, because it was time to change my life, to become the woman that I am inside. 97 dreadlocks all gone, I looked in the mirror for the first time and saw that, hey, I am not my hair, I am not this skin, I am not your expectations, no, no, hey, I am not my hair, I am not this skin, I am the soul that lives within. What's she do to her hair? I don't know, that crazy. I like it. Do that. I wouldn't go that far. Good hair means curls and waves. No. Bad hair means you look like a slave. No. At the turn of the century, it's time for us to redefine who we be. You can shave it off like a South African beauty. Got it on lock like Bob Marley. You can rock it straight like Oprah Winfrey. If it's not what's on your head, it's what's underneath. And say, hey, I am not my hair. I am not this skin. Your expectations, no. I am not my hair. I am not this skin. I am the soul that lives within. Does the way I wear my hair make me a better person? Does the way I wear my hair make me a better friend? Oh. Does the way I wear my hair determine my integrity? Oh. Hey. Breast cancer and chemotherapy took away her crown and glory. She promised that if she was to survive, she would enjoy every day of her life. Oh. On national television, her diamond eyes are sparkling. Bald headed like a full moon shining, singing out to the whole wide world like, hey, hey, hey, I am not my hair. I am not my hair. I am not this skin. I am not your expectations. No. Soul that I got. it braided all down my back. I don't see nothing wrong with that. Intendi in termini di aspettative? Non solo in termini di aspettative, ma di immagine di sé, in termini di confusione sulla realtà, in termini di identificazione con l'oppressore. Chi è che comincia ad occuparsi di questo? Pensavo. Cosa fai tu in proposito? Questo era ciò in cui volevo impiegare le mie energie. Era il 1969 e mi chiedevo: che ruolo gioco in tutto questo? In classe c'erano due donne di colore e cercai di parlare con loro di noi, delle donne nere e della necessità di unirci. Le organizzazioni di colore stavano accelerando i preparativi per le mobilitazioni primaverili. Quelle donne mi dissero: sei pazza, i nostri uomini hanno bisogno di noi. Un rifiuto assoluto. No, non possiamo unirci alle donne, siamo nere. Ma io dovevo continuare a provare di districare i fili, perché sapevo che se avessi smesso di farlo, quel groviglio di merda mi avrebbe inghiottito. La mia unica speranza era quella di lavorarci e districare quella matassa. Il mio rapporto d'amore con Francis, Ed, i bambini, le lezioni agli studenti neri, le donne. Era il 1969 quando ci fu l'occupazione nera al City College. Gli studenti neri scesero in strada per fare barricate. Yolanda e io andavamo a portargli la minestra e coperte e vedevamo come fottevano le donne nere sopra i tavoli e sotto le scrivanie. Cercavamo di rivolgerci ad esse da donna a donna, ma l'unica cosa che dicevano era: questa è una rivoluzione, non vi rendete conto? Vedere come usavano le donne di colore, come abusavano di esse, risultava doloroso. Cominciavo a capire, mi son detta. Voglio tornare a impartire lezioni a studenti neri. Andai al John Jay College e presentai al decano la proposta di un corso di lezioni sul razzismo e la situazione urbana. Egli mi disse: avanti, faccia questo corso. Preparai due corsi, questo ed un altro, che presentai al Dipartimento di Inglese. Consisteva nell'avvicinarsi alla scrittura come terapia attraverso la scrittura creativa. Fu una sfida. Il John Jay era una facoltà frequentata principalmente di poliziotti, non è così? Era stata una scuola per polizia. Io però cominciai ad insegnare nel 1970, dopo che liberalizzarono le iscrizioni e il John Jay diventò una facoltà aperta in cui anche i poliziotti frequentavano. Nei dipartimenti di inglese e di storia non c'era neanche un professore nero. La maggior parte dei nuovi iscritti erano neri e portoricani. Il mio atteggiamento era tutt'altro che aggressivo. Ho visto come ti comportavi al John Jay e non era esattamente così, anche se fu poco dopo. Non dimentichiamoci che era una donna nera. Il punto è che feci partire quel corso e riuscì molto bene. Si iscrissero molti studenti, molti poliziotti neri e bianchi, le loro pistole mi terrorizzavano. My soul is so weary, my soul is so weary, my soul is so weary. I said my soul is weary now. My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is so weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me, they love me, they love me, they love me, they love me. Got a hold on my heart. Me bound when the whole wide world is free, yeah. Adrienne Rich e Audre Lorde. Adrienne Rich, portavano la pistola? Sì, e dal momento che si liberalizzarono le iscrizioni e John Jay aprì le sue porte a tutti i diplomati della scuola superiore, avevamo poliziotti e ragazzi di quartiere nella stessa classe. Nel 1970 si stavano assassinando le Pantere Nere di Chicago e nonostante questo le nostre lezioni si mischiavano poliziotti neri e bianchi, ragazzi neri e bianchi di quartiere. La maggior parte delle donne erano giovani nere che sapevano ciò che volevano, ma che fino ad allora non avevano avuto l'opportunità di assistere alle lezioni universitarie. Alcune venivano dal programma SEC, ma non tutte, ed era la prima volta che si presentava un'occasione del genere. Molte avevano già un'età, si erano indurite parecchio in strada, ma avevano lavorato poco sulla loro condizione di donne nere. Avevano lavorato solo in relazione o contro i bianchi. Il nemico era sempre esterno. Ho insegnato in questo corso come in tutti gli altri. Cioè imparavo facendo. Ponevo quesiti difficili e non sapevo cosa ne sarebbe uscito. Magari avessi registrato alcuni di quei momenti. Come ad esempio quando un poliziotto bianco affermò: «Chiaro, ma tutti abbiamo bisogno di qualcuno da disprezzare, o no?» Con il tempo imparai come parlare. Non erano parole concise né raffinate, ma i miei alunni coglievano buona parte del messaggio. A partire da quello dovevano poi metterci del loro. Compresi anche che in un solo anno scolastico non potevo avere troppe aspettative. Magari Alcune persone sanno trasmettere grandi quantità di informazioni, ma non è questo quello che io volevo. Il processo di apprendimento si può solo sollecitare, così come si può sollecitare la ribellione. Poi, se si è fortunati, si compie il proprio destino, altrimenti si va avanti. In quel periodo John Jay aveva scatenato una battaglia attorno al Dipartimento di Studi del Popolo Nero. Ebbe ancora una volta l'opportunità di vedere come si usava e si abusava delle donne nere e come l'università trattava con smisurato cinismo il Dipartimento di Studi Nero. Un anno dopo tornai nel Dipartimento di Inglese. Mi ero fatta un po' di nemici. Uno dei metodi preferiti per screditarmi agli occhi degli studenti era dire loro che ero lesbica. In quel periodo già mi consideravo una lesbica dichiarata, ma al John Jay non avevo mai parlato né delle mie poesie né tantomeno della mia sessualità. Sapevo, e lo sapevo da sempre, che l'unico modo per evitare che la gente ti attacchi per essere ciò che sei consiste nell'aprirti ad essi ed essere sincera ed onesta e parlare di te stessa prima che lo facciano loro per te. Non era questione di coraggio. Parlare chiaro per me era un modo per proteggermi, così come lo fu pubblicare Love Poem nella rivista MS del 1971 e portarlo alla John Jay per appenderlo nella parete del Dipartimento di Inglese. Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love. No man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies. For my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Adrienne Rich e Audre Lorde. Adrienne Rich, ricordo che ti senti recitare Love Poem nel Upper West Side, un bar della 72esima strada. Fu la prima volta che ti senti recitarlo. Credo che fu in quel periodo, all'inizio degli anni 70, lo leggesti. Fu incredibile, un gesto di sfida, grandioso. Mi sentivo così incastrata, perché anche ora la situazione continua ad essere pessima, come allora. L'idea che nella comunità nera esista il lesbismo dichiarato era semplicemente spaventosa. Siamo andate avanti moltissimo in poco tempo. Il mio editore mi chiamò e mi disse letteralmente che non riusciva a capire il testo di Love Poem. Mi disse: e questo cos'è? Devo supporre che sei un uomo? E lui era un poeta. Gli risposi: no, sono una donna che ama. Non venire a dirmi che il tuo editore non aveva mai sentito parlare di lesbiche. Certo, ma l'idea che io avessi scritto una poesia. E pubblico la tua opera? Ah, scusate, Adrienne, che una delle sue poete fosse stile Broadside? Esatto, ed era un uomo sensibile, era un poeta. E pubblicò la tua opera? Sì, la pubblicò, ma all'inizio non pubblicò quella poesia. Love Poem doveva essere una parte di From a Land Where Other People Live. Scusate. E non la pubblicheranno in questo libro? Lo ritrasti? Sì, però quando mi sentiste leggere Love Poem, io avevo già deciso di non preoccuparmi più di chi sapeva o non voleva sapere che io avevo sempre amato le donne. Ci fu sempre qualcosa da cui presi forza. E non si può chiamare valore o coraggio. Voglio dire che, visto che sono vulnerabile in moltissimi aspetti e non posso smettere di esserlo, quantomeno non vado ad aumentare la mia vulnerabilità mettendo nelle mani dei miei nemici l'arma del silenzio. Nella comunità nera non è facile essere una lesbica dichiarata, però rimanere nascosta nell'armadio è ancora peggio. Quando un gruppo condivide un'oppressione comune, sviluppa particolari abilità e modi di difesa congiunti, e se una sopravvive è perché quelle abilità e meccanismi di difesa hanno funzionato. Però nell'entrare in conflitto con altre differenze emerge una vulnerabilità molto più profonda e critica tra i membri dello stesso gruppo. Questo è ciò che succede alle donne e agli uomini neri, perché possediamo alcune armi che abbiamo perfezionato tra tutti e che le donne e gli uomini bianchi non condividono con noi. A raccontare quest'idea ad una donna, lei giustamente rispose che nella comunità ebraica succede lo stesso tra donne e uomini ebrei. Io credo che la loro oppressione sia diversa, ma il meccanismo della vulnerabilità lo stesso. Quando si condivide la stessa oppressione, si arrivano a possedere degli strumenti o armi forgiate in segreto contro il nemico comune, ma possono essere usate contro il tuo stesso gruppo. Io non mi sono mai ancora liberata da questa paura e lo tengo sempre presente quando tratto con altre donne nere. È la paura nei confronti della ex compagna di lotta. In the flesh, I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals, royals. It's a run in our blood, that kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't. don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Adrienne Rich e Audre Lorde. Né, la poesia non è un lusso, scrivevi. I padri bianchi si ci dissero: penso, dunque esisto. La madre nera che tutte abbiamo dentro di noi, la poeta, ci sussurra nei nostri sogni. Sento, così posso essere libera. Ho sentito commenti che con ciò ti riferivi unicamente ai vecchi stereotipi dell'uomo bianco razionale e della donna scura emotiva. Io credo che stavi dicendo qualcosa di diverso. Potresti parlare un po' di questo? Ho sentito l'accusa secondo cui io stia rafforzando gli stereotipi, che sto affermando che intelligenza e razionalità appartengano all'uomo bianco. Il discorso è che quando si viaggia su una strada che non inizia né finisce da nessuna parte, cosa importa a chi appartiene quella strada? Se il cammino non porta da nessuna parte né conduce in alcun luogo in termini geografici, se manca di un obiettivo, l'esistenza di quel cammino perde ogni senso. Attribuire la razionalità all'uomo bianco è come dargli un pezzo di questa strada senza capo né coda. Quando parlo della madre nera che abbiamo dentro, della poeta, non mi riferisco alle madri nere che abbiamo dentro e chiamiamo poete, mi riferisco alla madre nera. Chi è la poeta? La madre nera è la poeta che vive in ognuno di noi. Quando i pensatori maschi e patriarcali, sia uomini che donne, rifiutano questa combinazione, ciò che fanno è troncarci. Non che la razionalità non sia necessaria, sta solo al servizio del caos, della conoscenza, al servizio del sentimento. Serve per andare da un posto all'altro, ma se non si dà valore a questi posti, il cammino non serve a niente. E questo è ciò che spesso succede con il culto della razionalità e con il pensiero analitico, accademico, circolare. Anche se in ultima analisi io non considero una dicotomia il pensiero e il sentimento, li considero come una scelta di mezzi e modi. Un tipo di scelta che dobbiamo rinnovare costantemente, non si fa una volta per tutte, va rinnovata in ogni momento, ancora e ancora, a seconda di dove ci troviamo. Io credo che ci hanno insegnato a pensare e codificare le informazioni in un certo modo ormai vecchio, e ci hanno anche insegnato ad apprendere e comprendere allo stesso modo. Gli unici modi possibili che non si sono mai sviluppati si possono trovare in un posto nascosto dove vivono i nostri istinti selvaggi e senza nome, dove esiste qualcosa di diverso, qualcosa che sta oltre ciò che oggi definiamo possibile e verso dove la nostra comprensione si può fare strada. Però ci hanno insegnato a rinnegare queste fertili parti del nostro essere. Personalmente, credo che la madre nera sia più presente nelle donne. Tuttavia rappresenta una parte umana di cui gli uomini non sono esenti. Ma gli uomini hanno preso una posizione contro questa parte di se stessi e questa è la posizione che nel tempo hanno assunto tutti. Io credo che stiamo evolvendo, Adrienne. È quello che ti ho detto prima, evolvendo come specie. Non follow mana gele yaima kia nyenyeni sampe kanyenyeni duguma kanyeni sani duguche na manoya ala file la la joni mbe kokola la la joni mbe kokola joma aladon Kanumana ke kamandila, kanumba yanteri, ni kera mafe katife, ni anyenyini sampe, kanyenyini duguma, kanyini sani duguche na manoya, ala file. Ulala, jonimbe kokola, ulala, jonimbe kokola, joma aladon. Mama na ke kia la jamaye, fie goya manin kelenye. Idu mana ke goya jamaye, fie dia manin kelenye. La la, jonimbe kokola. La la, jonimbe kokola. Joma aladon. Nye miri, mondebe jonimfe a dunya su. Ti giugne e ande barusui oh la la Johnny Mbe Coca-Cola oh la la Johnny Mbe Coca-Cola Le donne stanno evolvendo? La specie umana sta evolvendo attraverso le donne. Non è un caso che il numero di donne aumenti sempre. Suona strano, vero? Nascono sempre più donne, sopravvivono più donne e se non vogliamo ripetere gli stessi errori di sempre, dobbiamo prendere sul serio la promessa di un potere nuovo. Se non impariamo la lezione della madre nera che abbiamo dentro, anche se non siamo neri, credo che esista questo potere anche negli uomini, ma hanno scelto di rinnegarlo, di non trattare con esso, decisione che hanno il diritto di fare, e c'è da sperare che si possa influire in tale decisione. Chi lo sa? Non credo che il passo dal punto in cui si risolvono i problemi al punto in cui si sperimenta la vita sia un cambiamento che avverrà in una sola generazione, né una volta per tutte. Il cambiamento è un nuovo orientamento che cerchiamo di mettere in moto e che cerchiamo di influenzare. Non sto dicendo che le donne non pensano né analizzano, tantomeno che i bianchi non sentono. Ciò che dico è che non dobbiamo mai chiudere gli occhi davanti al terrore, davanti al caos che è nero, che è creativo, che è femminile, che è oscuro, che è rifiutato, che è confuso, che è sinistro. Sinistro, molesto, erotico, indefinito, fastidioso. Penso che dobbiamo rivendicare e utilizzare un vocabolario che è stato usato in maniera negativa e disprezzativa. E suppongo sia quello che affermi nei tuoi scritti. Cioè che affermi più e più volte nella tua poesia. E non è semplicistico come dire nero e bello. Una macchina nera non ha nulla di bello. Sai cosa, Adrien? Quando ero all'istituto, il direttore della rivista che pubblicammo lì mi disse, per sdrammatizzare il fatto che mi aveva rifiutato una poesia: d'altronde, Audre, a te non interessa essere una poeta sensuale. A me hanno detto che la mia poesia non doveva essere arrabbiata, non doveva essere personale. Quando pubblicai Uso dell'erotico, varie lettrici mi dissero che era un approccio antifemminista, che utilizzare l'erotico come punto di riferimento è... antifemminista? E ridurci ancora una volta all'invisibilità e all'immobilità, che con le mie parole ci collocavo di nuovo in quell'area di intuizione totale, aliena dalla comprensione. allora dunque conclude qua la conversazione, l'intervista di Adrien Rich a Audre Lorde. Volevamo mandare un pezzo. Che cosa è? Sì, è una sua poesia. Io ci tenevo a dire che questa è un'intervista che non è mai stata tradotta in italiano. Infatti quindi... ti lo dobbiamo, grazie mille. Prego, prego. Lo trovate sul nostro blog, sia l'audio sia il testo. E niente, per sentire la voce di Audre Lorde, quindi lei come recita una sua poesia, adesso ascoltiamo il file. Lo rimando perché è stata una sovrapposizione di canzone. Allora, Audre, eccoti. A song for many movements. Nobody wanted to die on the way, caught between ghosts of whiteness and the real water. None of us wanted to leave our bones on the way to salvation. Three planets to the left a century of light years ago. Our spices are separate and particular, but our skins sing in complementary keys. At a quarter to eight, meantime, we were telling the same stories over and over and over. But broken down gods survive in the crevasses and mud pots of every beleaguered city, where it is obvious there are too many bodies to cart to the ovens or gallows. And our uses have become more important than our silence. After the fall, too many empty cases of blood to bury or burn, and there will be nobody left to listen. Our labor has become more important than our silence. Our labor has become more important than our silence. Sì, bello di sentire la voce di Audre Lorde. Tra l'altro le sue poesie non sono state tradotte, mi sa, né in spagnolo, né in francese, né in italiano. Poco, no, neanche. Poco. Neanche. Le poesie qualcuna, gli scritti pochissimi, e c'è poco di tradotto in italiano, c'è pochissimo. In francese sì, in inglese, in tedesco. Ma in italiano, noi in Italia l'inglese purtroppo l'ha scritto in inglese, sì, è vero. E vabbè, comunque questo io c'è cioè un lavoro che ho fatto ed è come in tutti i suoi scritti un appello che vuole essere alla cooperazione, alla sorellanza tra donne, tutto qui. Vogliamo parlare un po' delle canzoni che sono state scelte per questa trasmissione, perché non sono state scelte a caso. La prima che abbiamo sentito era Rosie Burgers Trio, Before I Set Sail. Poi la colonna sonora, quella che sentite dietro le nostre voci, di Marilou Williams, What's Your Story. Abbiamo sentito India Hair, I'm Not My Hair. Abbiamo sentito Melody Gardot, Who Will Comfort Me. Abbiamo sentito Tracy Chapman, For My Lover. Abbiamo sentito Lorde, Royals. Roca Traoré, Lala. E Nina Simone, I Got No... non mi ricordo. Allora, con questa Marilou Williams vi salutiamo. E fra pochissimi ci sarà la trasmissione del CLR e a presto e di nuovo un saluto a Olga. Eh sì, di nuovo un saluto a Olga. Ciao Olga. Ciao.